sick look, sick look. Faccio tornare indietro i soldi tipo backflip. Le vostre storie finte come wrestling. Sto con la gang di PC37. E se non si tratta di soldi lascio perdere. Faccio tornare indietro i soldi tipo backflip. Le vostre storie finte come wrestling. Sto con la gang di PC37. E se non si tratta di soldi lascio perdere. Sto troppo in alto, golli come giraffe. Due in schifa, non sto fumando una palma. Scendo giù dal rione ma non sento chi parla. Il karma torna indietro, backflip sulla faccia. In braccia pesanti come pesi d'asso. Discorsi scontati come cibo che mangi. Pesce crudo, filetto di asce e sangue dal naso. Io ti avevo avvisato di andarci più piano. Con mezzo grammo, sticca 100 chiavi di piano. E se non parli di soldi è come se non parliamo. Dark way inside, baby, in campo non la passiamo. Questa troia ci vuole, quindi ce la passiamo. Sto provando a diventare ricco il nuovo Caimano. E continuo a andare dritto anche contro mano. Siamo i numeri uno e non potete fermarci. Faccio tornare indietro i soldi tipo backflip. Le vostre storie finte come wrestling. Sto con la gang di PC37. E se non si tratta di soldi lascio perdere. Faccio tornare indietro i soldi tipo backflip. Le vostre storie finte come wrestling. Sto con la gang di PC37. E se non si tratta di soldi lascio perdere. Sto facendo soldi, sto facendo backflips. Schiaccio stronzi a terra come nel wrestling. Colpiamo stronzi no karate come Bruce Lee. Sto con la gang, rolliamo Eva come un kickflip. Guarda le mie orecchie, il mio collo bling bling. Mio fratello ha un contasoldi che fa bip bip bip. Triplo 7 di PC, sto con Beppe UBC. Continua il gang, sarà il prossimo stronzo sul PC. Ritorna tutto come il karma, come un frisbee. Sto fumando da un chilo d'erba come un hippie. E se hai paura corri in chiesa, trova Cristo. Corro su giù per la zona con mio fratello Vision. Fumiamo canne d'erba da un grammo minimo. Succo di zenzero e poi non cammino dritto. Pacchini jeans non entrano dentro i tuoi schismi. Se non ci credi vieni con me a farti un giro. Faccio tornare indietro i soldi tipo backflip. Le vostre storie finte come wrestling. Sto con la gang di PC37. E se non si tratta di soldi lascio perdere. Faccio tornare indietro i soldi tipo backflip. Le vostre storie finte come wrestling. Sto con la gang di PC37. E se non si tratta di soldi lascio perdere.